quindi valutare così gli atti così del vostro lavoro. C'era un altro signore che nella mente di carta sostituiva un loro di 5-6 persone dal principe, dal re. Secondo il re doveva guadagnare le monete, il banchiere doveva solo prenderle in custodia, però emetteva carta moneta. Questa carta moneta ha preso piede negli scambi commerciali e veniva usata come denaro, okay? Quindi come moneta. Ovviamente essendo questa moneta preziosa al pari dell'oro, al pari della zucca, anche questa moneta noi possiamo metterla in banca. Okay? A sua volta, per accedere ora oggi a questa moneta cartacea, usiamo gli esempi di plastichina, bancomat, eccetera, eccetera, carte di credito, vedremo un po' di credito, ovviamente non di debito, è tipico per i banchieri di nostro mondo, questa cosa per avere cose come opposto nel loro mondo. Tecnicamente vediamo come funziona la riserva nazionale. Abbiamo detto che un banchiere ha in cassa dell'oro un certo quantitativo d'oro, ad esempio 10 pezzi, ne versa 8 perché sa che sono più pezzi d'oro che non gli verranno richiesti in un certo lasso di tempo. Ad esempio vi faccio fermare il legittimo proprietario dell'oro. Si tiene in cassa, cash, con tanti 2 pezzi d'oro e li scambia con le persone legittime proprietarie, come quando andranno in banca e fanno un assegno, si sa, no? Un evidentimo, oppure fare un assegno normale a un'altra persona che va lì a ritirare i contanti, eccetera. Cosa che vedremo, scopriremo facilmente perché oggi le banche, come si dice, consigliano, detto, no? Devi mandare una deposito, segna, solo in giro per i soldi. La riserva cartonaria, dato che l'oro di per sé ha cominciato a prendere contatto con la realtà, in quanto veniva depositato e veniva così messo su il mercato della carta moneta, ha una grossa importanza oggi perché vincola il nuovo signore, cioè appunto il banchiere, dal supporto fisico dell'oro. In effetti c'è un gruppo nel mondo, diciamo i libertari, che è molto attaccato all'oro proprio per questo motivo, perché l'oro non si può creare da nulla. Quei 9 famosi grammi, i grammi 10 da 3, vanno comunque scavati, una volta scavati vanno comunque coniati, e una volta coniati non puoi rubarne più di posta. Quindi i libertari sostanzialmente dicono che grazie all'oro c'è una sorta di freno alla ruberia dei politici. Okay? E voi poi nei vari forum, eccetera, troverete questa corrente di queste persone che sono libertari a mancare le ideologie, comunque loro vogliono le banche quanto noi, ma perché delle banche vogliono lo Stato. Poi, se avremo tempo, approfondiremo anche quel concetto. Questo per dire perché ancora oggi al mondo c'è gente che giustifica l'uso dell'oro come moneta. Cosa succede quindi oggi in banca quando noi andiamo a depositare la nostra carta moneta? La carta moneta dopo oggi nel senso nel 2000, può emetterla come la moneta poteva emetterla solo il re, questo dati tecnici. Tutto ciò che dico è documentabile, sul sito, comunque in internet, quando dirò qualcosa che, come faccio prima, userò una frase critica tipo secondo me, ok? Quando dico secondo me, così. Altrimenti userò già dati documentabili. La carta moneta oggi nel mondo può emetterla solo un signore che è la banca centrale. La carta moneta non esiste una banca che dici, che so, Intesa San Paolo emette carta moneta, no. Ogni pezzo di carta che trovate in giro la emette una banca centrale. Di banca centrale ce n'è una per ogni paese. Nei vari paesi, ad esempio, che compongono l'Unione Europea, se ne è creata una super, che è la BCE, la Banca Centrale Europea, in America hanno la Federal Reserve, poi c'è la Banca della Cina, la Banca di Barba, la World Bank in Russia, eccetera. Quindi ogni banca centrale, ogni paese la banca centrale, è più diversa, lo abbiamo detto, perché la banca centrale è la sua paese a scennare, E per lui ha utilizzato la lettera unica, cartacea. E le monete metalliche, non più composte da oggi giorno, vengono invece emesse esclusivamente allo Stato. Il signore, l'imperatore, il re di una volta, che era un re, tra virgolette, poteva essere visto in una sorta di, comunque, di potere statale, è l'unico in grado, che è rimasto questa cosa del generale, l'unico in grado di coniare monete. Non esiste una banca commerciale che coni moneta, che prende un pezzo di ferro e lo porge a forma di moneta, e esiste una banca centrale, okay, che possa emettere una moneta che poi possa essere spesa sul mercato. Dico questo particolare perché, ad esempio, la Banca Italia fa delle monete, diciamo che è tutta una cazzata, manco per vedere le novità. Fa delle monete, ma tutte cose anche, no? Per lavorare. Ci sono delle monete in oro da 50 euro, capito? Per un giro, insomma, così, come mi dai. Quindi abbiamo detto che il signoraggio è rimasto appannaggio dello Stato. C'è un tizio, oggi il signor Stato, che è noi, che può comprare un po' di ferro, di nickel, eccetera, per il valore di 15 centesimi, e fare una moneta che costa circa 2 euro. Il signoraggio sia rispetto per 2 euro, quando è costato sia 20 centesimi, e lo scarto lo Stato. Quindi lo Stato ha ancora questo potere, dipende da una qualsiasi cosa, nickel, ferro, nickel, eccetera, e legalmente dire, mettendoci sulla sua faccia, sia la Repubblica Italiana, dire che vale quel valore specifico, 20, 50, 1 euro, 2 euro. Quindi viene in mente la pubblicità di quel tipo di 10 centesimi, che li fanno ancora, perché oggi 2 centesimi non ci serve nulla. E se avete capito il concetto di signoraggio, avete anche capito che i centesimi, e questo è uno dei motivi perché vengono anche dismessi, a vantaggio dello Stato, perché lo Stato per creare un centesimo ne spende 20, grosso modo 18, così. Ovviamente sono medie, questa è un'altra cosa, qui si parla di concetti, perché la cosa di prima, c'è un testo che specificava che a una vista catalitica questo ci vogliono 20 minuti, però no, ci vogliono 2, è concetto, cioè si può parlare di tempo, non è che parlava di, allora per partito almeno è un concetto di tempo, poi per è tecnica. Questo per dirvi che non è che la moneta da 2 euro costa 20 centesimi, la moneta da 2 euro non è che costa 37 centesimi al testo, non so di che ciclo. Di media il conio della moneta in Europa costa 20 centesimi. Quindi, sempre non si ritardia, un centesimo lo Stato deve rimettere. Lo Stato deve comprare materiale per 20 centesimi e pigliare che fa un centesimo, ci compiono una grande fantasia. Di materiale c'è una cosa superiore, e spesso di più andando a prendere, venire, eccetera. Avete capito il concetto? Quindi, un centesimo di 5, 2, 5, 10, 20, con un assegnaggio di perdita per lo Stato. Lo Stato spende più di quanto ci incassa. Il remanente sono un assegnaggio a vantaggio dello Stato. Quindi lo Stato potrebbe pagare un moderario che prende, non so, 2 euro con 20 centesimi di spesa. E questo era il potere, no? Del signore. Come prima pagava con una 5-7 gradi d'oro, una multa che valeva 20, 10. In quest'altro caso, signoraggio, a chi spetta? Guardiamo che la banca nuova viene creata esclusivamente dalle banche centrali, anche che ci scrivono ancora il loro nome, no? Noi mettiamo sempre il nome delle cose che facciamo, a volte lo chiamiamo per proprietà, marca, eccetera, no? Che scattano i loro nomi, i nostri libri, a nome dell'autore, noi scriviamo il nostro nome. Deve usare la scuola, no? È mio, è un mio nome. E la BCE ci scrive il suo nome, BCE. Non ci scrive Repubblica. Poi c'è il dollaro, il dollaro americano, e chi è questo dollaro? Questo è una cosa abbastanza, veramente arrogante, no? È molto truffaldina, anche questo ci dico di nascosto. Il contrario, no? Lincoln è un che era fatturo ed è morto, perché stampava moneta sua, sua nel senso del popolo. È una moneta, ora, la sua faccia, perché è messo la sua faccia? Per dare una sorta di credibilità lì. Grazie. Sì. Sì. dà una sorta di credibilità a un biglietto che però, come tutti considerano, nota. Perché questa è una nota, tanto nota, ricordate, questa è una tanto nota, è la Federal Reserve, non è di Lincoln, e non è di un popolo americano. Perché la Federal Reserve Note, la Federal Reserve, scusate, è una banca privata. Questo detto su internet scoppia il criterio, però come ho detto prima, non è tutti secondo me. Ok? È una banca privata. Io l'ho sempre sentito dire in queste cose un po' cifre, che c'era poi meno male che è venuto il buon Mario Draghi e l'ha scritto una relazione, così mi ha fatto la Mario Draghi, in una relazione, ho visto tanti dati, prima Mario Draghi, in sotto del popolo, ha scritto un serio all'interno che era questo, eccetera, eccetera. È stupido, un pezzolino, questo ciò che non, che non stanno dicendo l'idea mia, così mi direi buona via. Rosmulle ci ha fatto la sua campagna elettorale. Quindi questa banconota, questa lista, questa è una lista, la Federal Reserve, è una ditta a fare la sera del testo, una ditta privata, prende un canta cotone, no? Dicono la fanno col cotone, non so. Spero. E dovrebbe parlare di giorni solo di questa banconota, che scrisse in Dio noi crediamo, certe composizioni, di numeri, di pesci, di tinte, eccetera. Faremo un convegno solo con banconota, ecco. Uno dei nostri convegni. In soldoni oggi diciamo che questa banconota è della Federal Reserve, con 20 centesimi, grosso modo, di dollaro, di cosa, poco cambia, con pochissima spesa, come il banchiere medievale, con pochissima spesa ha attestato che potrebbe arrivare a pagare 5 dollari. Un tizio, Kennedy, stiamo parlando a proposito di facce note, qui sopra aveva scritto il codice secondo i tempi, i temi rossi per leggerlo bene, aveva scritto United States Note, ossia nota degli Stati Uniti. In pratica era il Ministero del Tesoro americano che emetteva, stampava, banconote, non dei privati. Dice, vabbè, ma me che mi interessa? Io vedo campanino, un hamburger, 5 dollari da fare tempo, 5 dollari di generi sono uguali. È vero, sono uguali. Perché questo è il discorso del cannibale di prima. Sono uguali fino a che tu pensi solo a farti quel panino e non pensi che quel signore che con 20 centesimi ha fatto 5 dollari, con 20 milioni ha fatto 5 mila miliardi, quello che è comprato la Sardegna e si sta da inizi, questa non è una cosa politica. Ossia ci sono dei gruppi privati che hanno un enorme potere e magari un fatto da inizi. Tutto noi, se la Sardegna fa da inizi a un rock paper, si nota, no? Non crede, se è Italia, Sicilia, rock paper, e se la togli. Quindi cosa fanno? Incontrano altre persone, che sono i candidati politici, con il giro tra i candidati e i banchieri, e perché? Perché il vero potere legislativo, diciamo così, politico, è nato appunto a questi personaggi, i banchieri agiscono dietro le quinte. Quindi questi, con queste enormi materie di soldi, comprano questi politici, che sono quindi i rappresentanti del popolo. Ricordate, i massoni sono sempre il contrario, è una cosa poliatrica, perché la voce si riconta. Facciamo che siamo avanti e non si tocca a fondo. Io vado a fare quello che devo. In questo modo, avendo in mano i politici di una nazione, semplicemente stampando della carta, guadagnando, facendo altre dipende di carta, possono violare ovviamente una nazione e il popolo di quella nazione. Poi per quali scopi di vedere che ci sarà tempo. Ora, tecnicamente diciamo che le banconote che girano sono uscite da una tipografia di una ditta privata, ad esempio la Banca d'Italia. Qui ci sono vari video su internet, sulla stampa, no perché non è ancora arrivata questa cosa ovviamente. Anche lì c'era una cosa molto al di là di era, no? Gandhi, che diceva prima ti ignoreranno, poi ti debiteranno, poi ti combatteranno, poi tu vincerai, perché secondo lui formulato con esempio non stanno ancora sopra il corpo, cioè lo stanno più corpo, credo, e alla fine è inevitabile, troppo tardi quando li combattono. È molto romantico, vedremo poi se è vero o no. A Toscani ci hanno anche detto che dicono che una cosa prima non viene riconosciuta e poi viene data per accusata. Oggi tu dici, in teoria, in un circolo, in un certo ambiente, tipo internet o dal vivo, che si informa, come per voi da domani mattina, diciamo, la Banca d'Italia è privata, e che non lo sapevi? No, non lo sapevi. Quindi adesso si pronunciano, di questo diciamo, io lo sapevo, io sono del Ciro, io sono laureato di qua. No, infatti, un ragazzo si è avvicinato, laureato, dice, non ho mai saputo la scuola, quello di vendere la scuola a filo, non ha mai detto come si crea la moneta, da dove viene la moneta, e che la ci dica che è stato meno, comunque c'è una cosa che all'esterno non si dice. Ma ovviamente in tutte queste cose, un particolare non vi ho detto quando si può creare il sito non lo creavo 60 anni fa, ok, lo creavo nel 2005, 4 anni fa, che nella storia del mondo è veramente, non è veramente 5 secondi fa. Quindi delle banche di uno private, vi faccio essere uno specchietto, come si dicono, un box sulla Banca d'Italia, che la Banca d'Italia è privata, innanzitutto sono pochissimi in Italia. Ok? Quindi che lo sanno alcuni, c'è sempre quello che, come dico prima, nega per il fratello, che te lo capisco. Poi c'è quello che dice è che cambia. Io sono stato un'ora in viaggio in treno con una persona che lavorava nell'ufficio prezzi delle medie grandi imprese, medie grandi imprese in Italia con 500 persone, quindi non è un'officina popolata, una bella ditta 500 persone. Non voleva assolutamente credere perché la banca era così privata. Era all'inizio del 2005, questo dato è importante, vedremo perché, il Comune dice proprio questa storia anche per il vestito che per noi è un pochettino. Era all'inizio del 2005 e non c'era un elenco ufficiale dei comunitari, dei facenti parte del circolo del CDA di Banca Italia. In fondo gli azionisti di Banca Italia non si sapeva che fossero. È complicato che congiunti un po'. Ok? Quindi, questa persona negava che la Banca d'Italia fosse privata. Io avevo la prima manica, che era uno studio condotto da un tizio che lavorava per Medio Banca, grazie al suggerimento mamma, sarebbe la cucina giusta, che lavorava in Medio Banca, che aveva determinato le quote di partecipazione delle singole banche commerciali italiane in Banca d'Italia. Come? La Banca d'Italia aveva delle banche commerciali che vi partecipavano? Sì. Poi vedremo questo particolare, ma in particolare, come dicevo prima, lo stato più grande è quello psicologico, è che questa persona per viaggio che durava un'ora stava 58 minuti a negare se fosse una cosa possibile, mi piano stava esternare e io guardo questo l'elenco, firmato mi risparmio. Ah sì, dopo ma che cambia? Ok? Per dire che qual è il vero problema? Il problema è psicologico. Ma che sarà la differenza tra 58 minuti che mi neghi una cosa e la, come dice, accettazione, diciamo la sottina accettazione, che poi la cosa è come fai a negare? Ma come ti guarda lo specchio? Che mezzo è un mistero. Non si sa come funziona questa domanda su questa cosa. Forse è quello che diceva all'inizio, che noi vogliamo il cuscino comodo. Ok? Se un cuscino è fatto, è comodo, noi non ci fidiamo di come è fatto. Una cosa giusta che ho letto su internet di un personaggio, però una cosa giusta è che quando il nostro, semaforo è verde, noi non ci chiediamo come cazzo è quel semaforo la mattina verde, che è verde nostro. Noi passiamo, che è verde, verde. Lì là c'è una fila della mamma che è rosso, il semaforo nostro, è l'incrocio. Ok? Tu ci chiedi che è tutto passato, che ho fatto. Quello che l'ha fatto, quello che l'ha fatto. Alla fine, sapete cosa succede? Prima di tutto, che potessi farci io da rispetto avanti in una coda di 9.000 km, e torniamo al discorso da puntare per fare i bambini. Ma soprattutto, ti troverai che tu, la tua famiglia, appena scelto di casa, che ha vicino passi al semaforo verde e quello che per rotto le palle di aspettare 8 ore al rosso, posso lavare e basta. Ok? E succedono qui le tragedie. Le tragedie succedono per un concatenamento di eventi, tra cui anche una serie di negligenza. quando vediamo che succede qualcosa, siamo indipendenti, ci fermiamo di fare del porno, fanno delle fuori piante, o anche rosse di sangue, no, di solito sono morto, oppure meglio, ok? Quindi noi abbiamo degli atteggiamenti strani di fronte a delle cose anomale, forse perché ci annoiamo da niente, ogni cosa ci eccita, ci distrae dal nostro anomio della giornata. Ma quando vediamo qualcosa che non va, dobbiamo denunciarla immediatamente. Per cosa di macchie verde, sotto che verde, eccetera, scrivere, domandare perché, devi chiamare al comune e dire guarda che io così, così, così. Se non lo fai, sei corresponsabile di quello che succede. Oggi, se tu ti devi stampare la giornata, ti dici, vabbè, se ne frega, io devo fare a me, al più, ai miei figli, allora non ti cambuti per il discorso del cannibale. Il cannibale, quando la mangiano tutti, ma poi mangiano anche a te. I cannibali ti lascia, perché gli è comodo. Ti sistemano la sedia, ti danno le macchette pulite. Altri mangiano pure i cannibali, morirci questo non se ne hanno posto. Alla fine anche loro sarà. Comunque, capitare la psicologia è il concetto di permettere a una persona a costruire di stampare una ricchezza, una cosa che considera la ricchezza. Come avviene la stampa di una banconota? Abbiamo detto, dice a te, quello stampato le banconote, note di banco, perché qualcuno aveva dato dell'oro. Quindi sicuramente lo Stato ha dato dell'oro a Banca Italia e la Banca Italia ha emesso la ricevuta relativa, sicuramente, e non è vero neanche questo, questa è una cosa un po' che sapeva, comunque anche questa è abbastanza sconosciuta ai più. Che cosa poi possa produrre questa conoscenza verso gli italiani è un po' un mistero, giusto perché non c'è, no? Non può essere una cosa che quando gli italiani sanno di questo che succederà, e che ne so, non lo so, di sicuro non lo sanno. O forse come diceva Buscandi nel film su Marte, ci ritiene anche un po' come i minimi, i ragazzi, no? E il problema non è tanto facere la verità, ma che sta nulla, tutto resta uguale. E quello è quello che mi preoccupa. O se un giorno dicevate che fate una fila della verità, hanno partecipato 58 milioni di italiani. Stai a cavallo. Vedi, il mio problema è che la mattina dopo, oppure la sera stessa, qualcuno dice no, senti, vado a dormire perché domani vado al lavoro. Va bene. Diciamo che l'errata credenza che la Banca Italia sia una società statale è stata diciamo, importante quell'errata del settembre del 2005 perché fino ad allora, ho finito le prove, e fino al 20 settembre del 2005 non c'era un elenco dei partecipanti alla Banca Italia. Ce n'era uno fatto qualche anno prima da notizie di Mediobanca che si era da spulciare l'elenco di, diceva, ma chi ci vuole? Vani Banca d'Italia, sei un giornalista, sei un vecchio grosso di una banca, dice, dammi l'elenco. No, l'elenco non c'era. L'elenco di Banca d'Italia non era presente in nessuna parte. Sui verbali delle varie riunioni che facevano al Senato, non da Pizzicaglia, perché un organo statale riconosciuto, un organo sovrano, il Senato vecchio degli inglesi, no? Domani poi. Quindi nei verbali di riunione inerenti discussioni con monete scuole monetarie, in ambito monetario, in quelle poche discussioni in cui si trattava dei componenti di Banca Italia, i verbali sono molto complessi, no? Cose che poi sono affisse, chiunque potrebbe andare lì e trovare un tipo per denunciare, eccetera, era scritto MISIS, lista di partecipanti o MISIS. Ok? Non lo sapevano, non c'era modo di saperlo. Ovviamente non potevo saperlo, come il cameriere fa con cucina a cuoco, non so neanche a te, non c'è una migliore attenzione. Io credo che questo è quando cucina, tre è una fine. O comunque sono camerieri quelli di seconda sponda, quelli che fanno solo il piatto da fuori dalla cucina, e non fanno neanche in cucina, no? Questo non per giudicarli, parentesi, questo è il posto del re. Il fatto che lui fatto solo la moneta non vuol dire che sia meno grave. E allora cosa è successo? Il 20 settembre 2005 sul sito di Banca Italia ha fatto l'elenco, il BDS, dei partecipanti a Banca Italia. E questo ha una cosa piuttosto tragica perché un'associazione di cui non si sa bene lo scopo, se non quello che lei si autodichiara, perché lo statuto di Banca Italia è stato Banca Italia stessa, e non si fanno i rateificanti, è scritto sul dizionario, è una professione di stampo mafioso. È scritto in qualsiasi dizionario italiano. Ok? Quando tu non sai chi fa cosa, è un mafioso. Credo che le sigarette, è stato bravo. Credo che lava le mani, non lava la palco. Ok, quando tu non sai chi fa cosa, è quello mafioso. La banca italiana non c'era chi erano. Quindi, un po' con questo lavoro di medicina stanca, pubblicato su famiglie cristiane, e solo in seguito ripreso da Sole 24 Ore, che diciamo che non produce l'Italia, no? Per tornare in economia finanziaria. La Padania è arrivata a due anni fa, no? La Padania ha scritto un bel articolo sul signoraggio, anche parlando dei bilanci che spiegava anche tecnicamente come avveniva, però è successo nel tipo nel 2006, giugno 2007. E quindi, poi anche in altre volte, vabbè, la cosa ne parliamo, fatto delle varie regioni, cioè. No, ma io sono da fare quando ho presentato in Germania, prima di presentarmi, mi è uscito l'articolo dalla Padania, e il governo di Reto ha fatto come le stesse. Vabbè, chi ha scritto la Padania? Cioè, quando non c'è uno, poi c'è uno di questa roba. Vabbè, allora, quando non conosci la pensata, lo dici questa gente. E quindi, questa Banca d'Italia non è degli italiani, ok? E la Banca d'Italia è di una spilza enorme di banche italiane, tipo 62-63 banche italiane, tra cui c'è l'Inc che ha il 5% e l'INAIL che ha una cosa di sviluppo di 1%. Questo come se non bastasse, che cosa ha fatto dopo? Nulla, nulla. Mi dico, per periodo, c'è fatto anche un posticino, ormai è una cosa poca, no? Per periodo arriva sempre per periodo non deve mai riaccendere il cuore, perché sempre dopo all'amministrazione arriva dopo, alle cose, c'è qualche cosa di nucleare che arriva dopo, arriva sempre dopo, quando tutto arriva. Ah. La farma è arrivato prima però, Come? La farma è arrivata prima. Con la? Con la farma anche e anche, anche con i bond argentini. Allora qui non ci vediamo. A parte che se dico la cosa è questa. Il fatto Parma è piuttosto curioso che è arrivato prima, a parte che è influente, no? Noi parliamo di moneta, quindi in aspetto mondiale tu parli di Parma, come dire, una guerra nucleare tu ti trovi della forza. I fondi argentini sono una cosa, anzi, se vogliamo dire la tutta, è arrivato prima per deristare con il suo bond, anche il bond argentino è un deristaggio. Questa è una litteria, in realtà siamo con un'apocalissa che fa una dichiarazione, perché questa è una dichiarazione di un'apocalissa che ha cavalcato Roma. Vabbè, comunque, nel 98 ha fatto Apocalisse e parlava di Israele. Esatto, e quindi parlo di arrivare prima, non è che sei arrivato prima, quando parliamo di una cosa millenaria, tu non arriverai prima, no? Vito nel 98 è arrivato a parlare di banche, a parte non ha mai nominato un signoraggio, ha spiegato ci sono i video, quindi prima non lo dico usce, in modo autonomo, e si è arrivato prima di chi? Auriti, era un attimino prima, mi sono detto dalla scuola da Auriti, prima di Auriti c'era Infiniti, c'era Barth, nel 44 questo James, che era Giacomo, nazionalizzato Barth, ha scritto un libro, che diciamo che era il pre-Auriti, e prima di Barth c'era Max, c'era Lincoln, e nel 63, prima, diciamo, quindi tra il 44, e Auriti c'era Kennedy. Arrivare prima, qual è il vantaggio? A parte l'ego personale, se arrivato prima non è stato un certeggio. Ok, se arrivato prima non c'è, si viene così a scaldare la pasticcia. Se questo ha fatto qualche libro, ma io dico un'altra cosa, a me le persone che denunciano quelli che si vanno per essere informati sui fatti e non hanno esposto prima una denuncia, io ho delle riconoscità. Che cazzo fai? Se avete la parola non avete detto niente. Questo vale anche per te. No, questo è tutto sempre scuso. È il discorso di prima. E secondo le prime giocavo in botta, io giocavo in botta e quando su internet maledetto, su Google, moneta, come posso pregare mio vicino, non dici, mio vicino di scrivania, perché se comincia un po' vicino, è uscito fuori una sorta di questo del signoraggio, era il fine dicembre 2004 e io il 14 gennaio 2005, il tempo quando qualche vacanzina per farci bene, eccetera, ho perso il mio appunto l'uomo. Io non sono arrivato prima, io sono arrivato penultimo. Ovviamente mi vedono che arriveranno altri, ma io l'ho veramente denunciato. Perché Rothschild, che era un grande genio, ha visto una cosa fondamentale, no? Che si verifica, io la vedo confermata tutti i giorni. Il sistema non verrà capito dal popolo, non da tutti. E chi lo capirà sarà proprio impegnato a farci i soldi, a sfruttarlo per quello vantaggio. Ok? E perché Pirlo ci ha fatto la tournée? Uno serio era Ovidi, e ci ha detto che ha denunciato Ciampi. Tu lo denunceresti mai Ciampi? Io personalmente no, perché Ovidi aveva anche piccoli vantaggi, se avete parlato, aveva anche fatto un avvocato, era un professore di diritto, quindi a faccia cose sì. Quello ovviamente lo potrei, così uno fa anche quello che può fare, no? Denunciava così in pubblico, sì, lo posso denunciare Ciampi, Parti, chiunque. E Ovidi si sa per te, no? Allora da carabinieri lo denunciò. Denunciò un esposto a Wittenberg, lo visitò dagli mille euro, a Wittenberg. Vedo, non il tuo vicino di casa che ti va dietro davanti a casa e ti spacco le gomme. E poi non dice facile perché c'è il lavoro che quello ti spacca ammazza a cani, lui ammazza il figlio, se te la viene a fare ciò. No, ma vedi, semplicemente chi è Dio, Dio comunque, però lui dice così, non dice Dio, lei lo Dio oggi non c'è, sta, che fa dopo. Ci fanno crescere, se non ci fanno crescere, ok? Così fanno le persone sono le varie. Io ovviamente non ho mai vantato di averle, quindi al di là di tutto quello che dico è giusto, di questo c'è anche una certa coerenza, quindi non ho avuto questo, no? Comunque, a parte scherzi, si sono delle persone che fanno tutto per mantenerlo. E i vari tecnicismi, come ad esempio l'intere moneta in base all'oro, sono informazioni false da piano. Qui veramente il settore lo fa a iota, ma guarda caso non l'ha denunciato, mi ha fatto nessuna manifestazione, quindi con Simon, con chi conduce la Rothschild, io mi conosco più Rothschild che il figlio. Cioè, infatti arrivo più anche te, sì, mi dico, neanche di lui. Sulla fiducia. Fatto sta che nel 71 c'era un piccolo particolare che gli Stati Uniti erano l'ultimo paese al mondo che aveva legato la banconota dollaro con l'oro di terra. Quindi tu andavi negli Stati Uniti con tutta questa cazza straccia e dici ma che ci faccio con questa cazza? Che ti era nel tempo legato l'oro, no? Scusate. Dice, beh, tu mi porti $35, valore nominale, tu prendi le pezze di carta da 5 da un dollaro, da 100 eccetera, un negozio di 35 io ti do un'oncia, ok? Ci sta 30 grammi d'oro. Questo fino al 15 agosto del 71 quando Nixon dice otteniamo temporaneamente, per qualcuno potrebbe andare, otteniamo temporaneamente questa pratica. Abbiamo un flusso di oro per queste non Francia, in altri, Germania, eccetera, che portavano loro una traccia verde, che loro questo nuovo perché è un altro tipo, ma questo nuovo verde, diciamo, c'era questo flusso di carta straccia, che in Italia non stampavo all'epoca, e c'era un deflusso di oro che era invece considerato una ancora, era considerato prezioso. Perché veniva considerato prezioso? Perché veniva posto in riserva dalle banche centrali. Ora noi dobbiamo fare una distinzione tra banche centrali e banche commerciali. In teoria, le banche commerciali sono banche ovviamente private, persone che si mettono a posto tra di loro e che operano nel settore del raccolto del risparmio e prestito, ok? Investimenti, per persone specializzate nell'uso dei soldi, nel maneggio dei soldi. Queste banche ovviamente essendo private sono portate ad operare in una certa maniera, ossia al massimo profitto, un minimo perdito, soprattutto minimo investimento. E quando ne sono state possibili, tutti i privati, anche magari in qualcosa di legale o all'inizio, eccetera. Quindi occorrerebbe un organo per farlo, perché in qualche modo controlli queste banche commerciali. E la banca centrale ne regola i prestiti, interbancari, sono banca Intesa, non banca, ricordo che facevo prima l'elenco dei partecipanti a Banca d'Italia, che lo sempre più studiando, perché i più imposti, i PIG, si vanno messo, no? Capitalia con l'Ifredico, San Paolo, Rini, stanno unendo sempre più, e nei prossimi mesi per un altro posto sul peso che ci sarà, e già loro, i primi tre, hanno la maggioranza sul controllo dei banchi d'Italia. Fa poco di più, poi alla fine mi dai anche che ne sarà soltanto uno. Quindi, ecco, al di là di tutto, uno veramente problematico dovrebbe denunciare Banca d'Italia perché già una sicurezza del codice civile, tu non puoi chiamare la tua azienda vita con l'Italia. Se tu ti chiami Panettone SRL non puoi fare scarpe, perché è fuffa, ok? Tu inganni, no? Inganni un po', tu ti chiami scarpe di pelle non puoi fare scarpe di gomma, perché comunque vuoi far ingannare il racchidente. Banca d'Italia c'è già, e Banca d'Italia dovrebbe facilmente, Banca d'Italia denunciando se stessa si spiglia. Ossia, è un nome che non corrisponde. Come diceva Marx, no? Per chi danno di denominazioni nazionali, Banca di Spagna, Banca di Francia, tutti con il nome del paese per darsi giusto, per darsi felicità, ok? Quindi diciamo che abbiamo queste entità private, anche sul fatto del discorso del privato, pubblico privato su una banca commerciale, gira molto in internet. Facciamo un discorso pseudo-filosofico. Il 19 settembre un olandese che faceva studi sulla moneta italiana avrebbe detto che cosa? Banca Italia e gli italiani. Perché? Perché andava sullo statuto e aveva scritto che sullo statuto, ragazzi, lo statuto è una costituzione per un paese, lo statuto per una società. Sullo statuto di Banca Italia c'era scritto la maggioranza delle azioni deve essere in mano allo Stato, o comunque controllabile allo Stato, o comunque eccetera eccetera. Quindi pubblica. Invece l'articolo 3 era, il 19 settembre già c'era, perché era già da parecchi anni, da 20 anni che era così, in anticipo sulle varie denunce, eccetera. Loro sai cosa hanno fatto, i signori di Banca Italia? Hanno cambiato l'articolo 3. Ok? Fate conto che l'Italia non è permessa l'intervento di aree in guerra, no? L'Italia impazzisce, dichiara guerra alla Tunisia, dichiara, va bene, un legislatore, una internazionale, un diritto internazionale, ma come sta la Costituzione? C'è scritto così? No, non sempre. Ho fatto a quel pezzo. Perché capito, Banca Italia, una volta scoperta che era in mano a banche private, a banche commerciali italiane, ha cambiato lo statuto che vietava quella cosa. Ok? È il massimo potere, no? Cambi le leggi scritte da te che sono in contrapposizione a ciò che fai te. Poi dici, no, come è scritto quella cosa? Non c'è più, ti devi farci. Ma Berlusconi prima non diceva. Berlusconi, noi dobbiamo Prodi, un componente della cosa non tattica, con Prodi Berlusconi. Lo so, perché purtroppo non c'è la infinite. Esatto. Però tu mi hai messo forse c'è Berlusconi, non vuoi bene, ma ragazzi. Cioè, Cracchi, la storia di Cracchi della Liga, Cracchi voleva fare di 5.000 lire salutabili in 5 lire, è interessante, non è un evento così, ma che c'è, cioè, la Francia ha fatto così, infatti mi dispiace, forse l'abbiamo incontrato, anche un punto di nulla, no? Una cosa tecnica del piatto, e poi diventa economico-commerciale, ma non c'è nulla a cambiare uno stile di grandezza. E Cracchi voleva fare questa cosa, ma le 5.000 lire di carta non voleva fare diventare 5 lire di carta, quella per la moneta. Abbiamo detto prima che il signoraggio delle monete, quindi lo Stato italiano con due lire dell'epoca avrebbe stampato, non con due lire, per tornare i centesimi, con due centesimi avrebbe stampato 5 lire, ok? E si sarebbe incassato la differenza. Grazie, tanto punto, a chi vado a dire questa cosa? Alla loro governatore della Banca d'Italia. Ciao. Ok? Cambia le sue scuse, ma non si può fare, avete il caso di forse è meglio prendere la sua di tanto note, guarda caso, e stamparci sopra, no? Tasche di sé, un giudino di Stato, che Stato devono dire, stampa di dare l'epoca, a noi di sé, cambi una moneta bloccata, Mi dovrebbe dare l'invito di praticare una scena da lotteria. Ok? Ovviamente Ciampi, pochi anni dopo, è diventato il vendore di lotteria. Sempre oggi fanno una cava tanta con la separazione dei poteri. Hanno quello di Prato, fanno l'Italia del Prato, gli uomini degli scambi, e come veramente la coppia, scambi con le marite e poi la fragilità del matrimonio, un po' di coerenza, no? Fatto sta che ci sono sempre questi personaggi che passano da un ufficio pubblico a un privato e viceversa, e sono sempre loro. Draghi, Ciampi. Ciampi, il presidente della Banca d'Italia era Pisa. Ovviamente, quando poi dici, l'articolo 3 non va bene, se non c'è una linea, se vuoi muore l'ordinato, scriviamo tutto. Ok? Io ho l'originale del penultimo, anzi, il penultimo, saluto, le Banca d'Italia erano tipo 70 articoli. Il 40% erano abrogati. L'articolo 48 è stato abrogato. Quando hanno parlato con loro, c'è privato che hanno ristampato, stiamo sul bene, sai. L'articolo 3 attualmente è nato l'articolo 3, ma l'articolo 65, mi pare che era 56 o 57, che prevedeva il ritorno del signoraggio, qualche quello è nato dalla truffa, il ritorno del signoraggio sulle monete che ritornava allo Stato perché di partita, è diventato l'articolo 48, non stavo chiamando, no? E tra cui hanno messo una cosa nuova, anche lì, una carica di vita, manco la vita, cioè, quindi, era per la vita. E la invece le 500 lire? Quindi, ma, uno mi fa niente una cosa e lo fa lavorare a no? Quindi, solo il male di vita. Quindi, Papa è il governatore. E poi che fa il potere che ha i cittadini? Ma come? Quello è Papa, il vostro vito, quello è il governatore. C'ha la stessa carica del Papa. Senti, scusa, se mi vengo in mente adesso, non so se ti faccio andare fuori le 500.000 e quanto l'ora invece che le faccio prima. Invece le 500.000 quanto l'ora erano fatte dallo Stato italiano. Però ti sei d'accordo che stiamo parlando di un video? No, di quella prossima. Perché le abbiamo 5 milioni e le sta proprio a servire. Quando ti dicevo prima che Kennedy mise la pista invece che spesa del terzo, gli italiani avevano fatto una cosa simile con le 500 lire, ragazzi. Prima vi dicevo che una banconota, una moneta, sopra c'è la sua faccia, e nel caso odierno ci dovrebbe essere scritto Repubblica Italiana. Quindi c'era il nome Repubblica Italiana. E l'unico verso di caso con cui sopra c'era scritto Repubblica Italiana erano 500 lire. Poi col mercurio alato. Carino, no? Stanca dell'agricoltura. Stanca dell'agricoltura e anche due banche. Troppo facile dire che la strage di Alta Fontana, cioè ha vinto delle bombe davanti alla banca che era l'unica banca. L'unica banca che emetteva la carta moneta. Prima avevo detto che nessuna banca emette carta moneta, tranne quella, tranne per il 500 lire. Caso unico papali, c'è una sua bomba. È un caso, ovviamente. Ok? Ed è un caso che dopo quella bomba si sospende la decisione di Giorgio Pesce. È un caso anche che hanno mostrato che... E infatti, ovviamente, non viene di niente subito del 73, di nuovo una legge che è il presidente, che è una legge, che il tesoro americano voleva mettere delle banconote, il numero di banconote, poi questa è una cosa forte, perché voi dovete pensare, certo, ma esiste solo 4 milioni di dollari, 4 milioni di dollari in contanti nel 63, e dove c'è stato, troveranno, cercheranno qualsiasi modo per denigrarti, ok? E troveranno queste cose, dicono, no, non è vero che la banca è la chiesa, voi glielo dimostrerete. Però proviamo un'altra cosa, e queste persone sono persone pagate. Ora, il soldo può avere due cose, un soldo può essere il contante, quindi dovete, effettivamente le persone pagate non dico, non lo fare, non dico che mi chiede tanto, non ti spiegate stasera. Poi, farete dei servizi, che ci sono su internet voi pensate che sia un uomo libero, non lo è, vedete il caso, guarda caso di qualche livello, sono le persone, non so quattro nomi, ma il nome di Baker, che manipolano le discussioni. Quindi, in soltori, guarda, come dirò, dottori, internet non è quel luogo libero che sembra. La seconda movimento di Levatati è l'ego. L'ego non è una moneta secondaria, per molti l'ego è tutto. Prendi un direttore di banca, ok? Che ha fatto 40 anni, io ho fatto una conferenza di copertura una sera a Teramo, all'università all'Aquila, e c'era un tizio che su una parte non parlava mai, poi prima andava parlato, era modificato, ma cosa? Però poi alla fine candidamente a me dice, guarda, è vero, è tutto vero. Ed era un ex direttore della filiale dell'Aquila, della Banca d'Italia. Ok? Quindi voi immaginate lo sforzo fisico che ci vuole per dire, guarda, uno è stato pronto e non ho fatto pregare, non so se è importante, ma sono anche qualche stato nella disponibilità. Uno è stato pronto e non ho provato a migliorare. E l'altro è che sono stato parte attiva di questo processo. Quando io, direttore firmato, facevo, in pratica odiavo, la brava rotellina girava anche io insieme alle rotelline, essendo direttore ero più grande, facevo girare altre rotelline, magari per quello che fare resistenza, dov'è? Io sono stato parte attiva di questo. E quindi è difficile scoprirsi autori in una fatta, ok? Per questo dicevo c'è una parte psicologica dell'ego. Immaginate un ragazzo che studia, sta via all'università 5 anni a sbattersi per quella materia, ok? Viene fuori un parcucine che non è nessuno, io non sono neanche laureato, e dice cose sono tutte diverse. Però che sono un gerarchico, per titolo, e anche un laureato, no. Chi se ne frega, io ho fatto un'associazione che si chiama Primit, abbiamo 7-8 laureati, 3-4 in economia, e dicono che è così, cioè funziona che dico io, quindi la rilacciate per me. Non è così, la tecnica mi fa per questo turismo. E quindi il fatto di accettare una cosa è difficile da mandare giù, perché c'è una cosa forte di tirare mettere in bocca, mandarla giù, l'alcol è piccola dalla bocca. Ok? I prezzi si scostano, parecchi ne devono mettere in bocca, se la bocca si scosta, non riesce a mandare giù. E lì si muove il popolare, a questo non lo studi, e la studi in faccia quella calata. Se lo mangio una mille, è troppo grossa, forse sbaglia, si incastra tutta in bocca, la rimette direttamente in bocca. Ok? E quindi sono questi casi, e internet è un teatro, diciamo prima, con quel ragazzo, la farfuccia lo conosce in una certa maniera, non possiamo mai un corso sul singolo elemento, perché altrimenti si creano dei culo, e siamo buoni per chi? Grandi, grigio, farfucci, Kennedy. L'importante è capire il meccanismo, poi ognuno diventa corso di se stesso, no? E quella è la vera libertà, è quella la consapevolezza. Altrimenti siamo solamente portatori di informazioni, portatori insani di informazioni. Che ce ne facciamo, come dicevo prima, di essere minimi? Il sapere che la banca è l'area privata, che ce ne facciamo se domani torniamo allo sportello e a quella vecchina che ci chiede il bond e noi glieli diamo? Ok? La consapevolezza porta anche ad agire in modo diverso, appunto, in modo consapevole. Che non è che è male, perché questo allora se tu continui a dare a una vecchina una carta con un soffitto solo per operatori finanziari, quella fa 95 anni, lui lo dà lo stesso, che sono tutte operatori finanziari, il bastone non lo immaginavo tutti. Ok? Un corpo viene di informazione e poi la consapevolezza. Tornando a noi al discorso tecnico sulla moneta, così chiudiamo, dobbiamo dire allora, se ogni carta moneta viene messa non si conosce del loro detenuto, dopo il 15 agosto per qualcuno non c'era più la convertibilità del dollaro, copertura di convertibilità del dollaro in oro, e veniva a decadere anche la copertura delle altre monete in dollari. Perché ad esempio in Italia questo fatto che non era più possibile convertire, dico una cosa banale perché era troppo meno dietro, ma che c'è, io vado 100 euro con il gioco non lo sa, lo stai comprando, non stai convertendo, per la differenza, no? Convertire vuol dire che quello che ti va fino ad oggi sta per a te e tu gli dai una cosa che lui ha detto, ok? È diverso da comprare, non so che loro va dietro conti, a parte che non ti compri in voti. Ti ricordo che ti avrei stato comprato fino a 3.000 euro, dovrebbe tenere oro. Per quegli indicanti gli hanno invitato nel 1934. Insomma, una storia divertente. eccetera. Comunque diciamo che quando tu ti trovi una banconota strana, quella banconota l'hai vinto una franca centrale e non un spazio. Ok? Dice, vabbè, allora io oggi poi solo le banconote monete metalliche. Ovviamente il banchiere, il GB come chiamo io, il gasto banchiere l'ha vinto tutto. Le monete metalliche, pure rispetto al signoraggio statale, non puoi in Stato deciderne quanto scambare. Okay? C'è una certa montare, Banca Italia, Banca Cile oggi, decide quanto euro gira. Capite? Dice, va bene, io di quel poco di gira voglio dare esclusivamente quello. No, non puoi farlo. Non si possono fare spese superiori a 50 pezzi di una singola moneta. Quindi, visto il pezzo più grande, quindi 2 euro, tu non puoi fare una spesa di 105 euro. C'è una legge che permette a chi riceve in pagamento una moneta metallica di ritirare il pagamento. Se tu vai nella cassiera e dice non voglio questi, dice no, questi tutti, cioè, noi siamo una guardia. Siamo una guardia, questa moneta molto costosa, per lo Stato, se volete, e ti faccio arrestare e non hai accettato questa moneta. Invece il coro è quella della cera. Invece puoi ritirare 51 euro di moneta a Ficcia. Se mi fanno fuori, puoi pagare 40 euro con 20 pezzi da 2 euro e quella di Pastori, e lei invece è obbligato ad accettarli, ok? 50 no, fino a 50. Quindi pensano a tutto, il GB ha messo a tutto. Dice, va bene, ma questo è tanto nuovo, allora chi le mette? Le mette la banca centrale, ma a fonte di che? Dice dei titoli pubblici. Lo Stato ti dà 1 milione di post e tu banca centrale ti dà 1 milione di banconote. Allora, fatto il fatto, dobbiamo sempre tenere a mente che il discorso che facciamo è un discorso, abbiamo visto, millenario, no? Quindi ciò che vale negli ultimi anni ha un significato relativo, magari domani si può cambiare. La stessa Banca d'Italia ci dà una legge nel 2005, quarta casa, una volta che tutte le Banche d'Italia hanno pubblicato l'elenco dei soci, hanno palesato la truffa. Però, siccome tu dici, guarda, io ho minato a quello, l'ho fatto di governo australiano, ho spaccato le ossa. E quello che dice, ah, non fa niente, guarda, se entro 3 anni quello torna in piedi, io non ti faccio niente. Tutti hanno fatto la Banca d'Italia, se un reato, che picchiare una persona, che è aggressione, ed era essere di mani privati, che contraddiceva il suo articolo stesso che dico, alla Banca d'Italia hanno dato la chance, con una legge, questa è pure del 2005, credo, di tornare, far tornare le quote in mano agli enti pubblici entro 3 anni dalla pubblicazione. Quindi a fine di quest'anno, fino a dicembre 2008, l'Italia dovrebbe riavere, in teoria con Banca d'Italia, che cosa ci farà l'Italia con una banca che è diventata una succursale della BCE, che è un ente sovranazionale, nessuno dice, se qualcuno ha votato per la BCE, possono fare di fare qualsiasi cosa, fare i tassi. Loro sono una vita comuni e attendere ad al parere degli esperti che siano comunque autonomi. Poi affrontiamo il discorso di questa autonomia, come se io guido, però manco una cedera, sulla macchina mia, però una cedera, uno sterpa, io che faccio, sto lavorando. Io sto sentendo la musica, pago però, pago il viaggio, la macchina deve essere mia. Quindi diciamo, il discorso del boss, di titolo di Stato contro il contante, al di là che il rapporto di Banca d'Italia non è più totalmente così vero o così immediato, ossia non c'è il fatto che lo Stato la colpa